Letture di Radio 24. Testardo, autoritario, con un'autostima enorme, convinto di avere sempre ragione. Quando commette un errore, rimuove tutto senza spiegare nulla. Così Giampaolo Pansa definisce il suo ex direttore Eugenio Scalfari nel libro La Repubblica di Barbapapà, che ripercorre 30 anni di storia italiana attraverso la storia di un impero editoriale, quello del gruppo Repubblica L'Espresso. La figura di Scalfari, detto Barbapapà dai giornalisti della redazione, emerge attraverso una serie di ricordi e di aneddoti. Pansa, vice direttore di Repubblica dal 1978 al 1991, racconta i successi editoriali di un quotidiano che, partito da zero, era arrivato a superare le 400.000 copie, ma si sofferma anche sui momenti di difficoltà. Come quando nel 1988 il giornale di Scalfari venne coinvolto in un caso di molestie in redazione. Un giorno, tra le biondine, comparve una biondissima. Era una ragazza dalla bellezza prorompente, con un fisico da mozzare il fiato. Voleva fare la giornalista e aveva trovato l'ingresso della redazione grazie a una parentela importante. Il nonno della fanciulla era un big della finanza italiana, vecchio amico di Scalfari. Di fatto, la nipote risultava una raccomandata, sia pure del genere volonteroso. Disposta a imparare sin dall'inizio una professione che contava di fare con serietà, cominciando da qualche collaborazione alla Cronaca di Roma. Vale a dire scrivendo piccoli articoli che potevano essere richiesti dal responsabile del servizio. Tutto normale, dunque, tranne un dettaglio. Il suo capo era un tipo al quale piacevano le ragazze e la biondissima lo intrigò subito. Il capo cominciò a corteggiare la ragazza in modo sempre più pressante. Il pasticcio prese forma della versione più tradizionale, lui che premeva, lei che si negava. Il capo cronista doveva aver perso la testa. Senza tener conto della resistenza della biondissima, commise l'errore di tampinarla anche quando stava a casa. La cercava al telefono, la supplicava di incontrarsi in privato, le proclamava il suo amore più totale. La ragazza gli spiegò che non intendeva prenderlo in nota. Lo pregò di non cercarla più e di lasciarla in pace quando si presentava sul lavoro. Fu inutile. Lui seguitò a tormentarla. A quel punto la biondissima si decise a registrare le sue telefonate bollenti e le portò al nonno perché si rendesse conto di quanto le stava accadendo. Molto seccato, il supernonno chiamò Scalfari e gli chiese di ascoltare le bobine delle intercettazioni e alla fine gli domandò che cosa intendeva fare in difesa della nipote. Eugenio non perse tempo. Chiamò nella sua stanza Gianni e me. Ci spiegò che eravamo alle prese con un caso sgradevole di molestie sessuali dentro il santuario di Repubblica e ci chiese come pensavamo di dover reagire. Il parere di Rocca e mio fu identico. Le telefonate erano troppo pesanti. Quel capo cronista andava licenziato su due piedi. Scalfari traccheggiò. Prima di decidere, intendeva svolgere una rapida istruttoria. Interrogò il vice del capo molestatore e qualche collega, comprese un paio di ragazze. Poi emise la sentenza. Il licenziamento gli appariva una misura estrema ed Eugenio, per carattere e abitudine, non voleva sbattere sulla strada nessuno. La misura più equa era invitare il pasticcione a continuare le ferie che stava già facendo. Al suo rientro sarebbe stato destinato a un altro incarico. La storia sembrò concludersi in quel modo, con una destituzione sul campo mascherata da un normale avvicendamento, come può accadere in posti di grande responsabilità e di lavoro stressante che spesso logorano anche i professionisti più solidi. Tutto sembrava acquietato quando successe il finimondo che nessuno si aspettava. La mattina di venerdì 4 ottobre 1988, il segretario di redazione, Rolando Montesperelli, entrò nella stanza di Eugenio e lo interruppe mentre stava parlando con Rocca e me. Il segretario appariva molto agitato e disse al direttore: «Davanti all'ingresso del giornale ci sono le femministe del Buon Pastore. Stanno distribuendo un volantino sul caso di molestie accaduto in casa nostra». Montesperelli, da noi chiamato con affetto il bidello, porse a Scalfari uno dei volantini. Il direttore lo visionò con rapidità, poi disse: «Agitarsi è inutile. I volantini prendiamoli tutti noi e la faccenda si chiuderà lì». Il bidello scosse la testa affranto. «Direttore, la faccenda è ben più seria. Quel gruppo femminista sta volantinando anche davanti alla RAI e agli ingressi degli altri giornali romani». Eugenio chiese a un redattore di scendere in piazza Indipendenza per accertarsi di quale gruppo si trattasse. Il messo ci portò notizie pessime. Il nucleo che volantinava apparteneva al Comitato Femminile per la Trasformazione della Giustizia. Dietro quella sigla, quasi burocratica, c'era una donna capace di essere un'avversaria davvero tosta. Si chiamava Elvira Banotti, 55 anni, nata a Asmara, in Eritrea, una femminista battagliera come poche. Le donne del suo gruppo venivano chiamate quelle della fascia rossa, perché quando scendevano nelle strade a manifestare portavano sulla fronte un nastro vermiglio. Ricordavano i Khmer rossi di Pol Pot, i guerriglieri comunisti che a metà degli anni 70 avevano occupato la Cambogia, instaurando una dittatura tra le più feroci. Per nostra fortuna, le ragazze dell'Elvira erano meno sanguinarie. Non intendevano accoppare nessuno. Dalla loro sede di via del Governo Vecchio, il Buon Pastore, si limitavano a mandare al tappeto i maschi, soprattutto quando si trattava di personaggi della sinistra, considerati maschilisti ipocriti da inseguire con l'accusa di non comportarsi da stalloni a letto, come si vantavano di saper fare. Nel volantino distribuito il 4 ottobre, la signora Banotti ricostruiva a modo suo il caso accaduto a Repubblica. Il capo servizio era stato sospeso per 5 mesi dall'incarico per aver esercitato molestie virili verso una giovane giornalista. La molestia consisteva nel pretendere prestazioni sessuali in cambio della possibilità di scrivere. Il giorno successivo, sabato 5 ottobre, l'affare del volantino stava su molti giornali, insieme alla storia di molestie all'origine della faccenda. Repubblica fece scena muta, nel senso che si guardò bene dal parlarne. Il 6 ottobre una giornalista dell'Unità, Marcella Cernelli, registrò la difesa del molestatore. Lui disse: «Non è vero che sia stato messo in ferie per 5 mesi. Sono andato in vacanza il 6 settembre e mi accingo a ritornare al giornale. Ho avuto un altro incarico, ma soltanto per un avvicendamento naturale dopo 6 anni. Comunque, smentisco tutto. È evidente che qualcuno sta pescando nel torbido per colpire me e Repubblica. A questo può far comodo che io venga messo da parte». Poi sostenne: «La mia condanna è basata su voci tendenziose. E poi, per dirla tutta, se esistono molestie virili, posso testimoniare che esistono anche quelle femminili». Molestie femminili? Qualcuno a Repubblica si mise a ridacchiare. Comunque il volantino dell'Elvira Banotti aprì un dibattito su quello che un titolista spiritoso chiamò il fronte del porco, ossia sulla diffusione delle molestie e dei ricatti sessuali nei luoghi di lavoro. Ci fu chi protestò contro il linciaggio del giornalista attraverso il proclama delle femministe con la banda rossa, affisso in molte redazioni romane, ma si lessero anche giudizi severi sul silenzio delle redattrici di Repubblica. Il 14 ottobre 1988, sul Manifesto, in una delle sue noterelle spiacevoli, Rossana Rossanda scrisse: «Non apprezzo le donne che tacciono, esponendo al ricatto se stesse e le altre. Non apprezzo le giornaliste di Repubblica avvolte in un manto di silenzio da cui filtrano le chiacchiere. Prendiamoci la responsabilità di difenderci e di attaccare in prima persona, davanti al giudice o al giurì della stampa. Ma chi non ha il coraggio di mostrare la faccia, stia zitto e non rompa le scatole». Divampò ancora qualche fiammata polemica, poi tutto si spense. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Giampaolo Pansa, La Repubblica di Barbapapà, storia irriverente di un potere invisibile. Rizzoli, 340 pagine, 19 euro. Il tempo non trascorre sempre alla stessa velocità, o perlomeno cambia la percezione che ne abbiamo, che varia a seconda dell'età o delle circostanze. Vi propongono un impegno in là nel tempo? Prima di accettare, chiedetevi: se fosse per la prossima settimana, ce la farei? E se la risposta è no, non accettate. Tutti tendiamo a pensare che un compito, se ci toccherà nel futuro e non nell'immediato, richiederà meno tempo di quello che poi servirà davvero per portarlo a termine. Così alla fine ci ritroviamo sempre ad andare di corsa. Chi parla è Claudia Ammond, psicologa e autrice de Il mistero della percezione del tempo. Il suo saggio mostra come la percezione del tempo sia una costruzione mentale e come tale spesso ci inganni. I fattori in gioco sono diversi. Anzitutto le emozioni. Per gli impulsivi il tempo passa più in fretta e ci sono anche influenze più sorprendenti come la temperatura corporea. Se ne accorse nel 1935 Hudson Hoagland. Con la febbre a 39, quello che i soggetti del suo esperimento percepivano come un minuto erano in realtà appena 34 secondi, spiega Ammond. Ma la percezione del tempo ha molto a che fare anche con ciò che viviamo. Il neuroscienziato americano David Eagleman sostiene che di fronte alle esperienze nuove, l'attività dei neuroni aumenta e il cervello consuma più energia. E questo ci fa sembrare che un'esperienza sia durata di più. Esempio, in un viaggio verso un posto mai visto prima, l'andata ci sembrerà prendere più tempo del ritorno. Il fattore novità potrebbe spiegare anche perché più si invecchia, più il tempo sembra volare. Dice Hammond, si diradano le grandi novità della vita, il primo bacio, il primo giorno di lavoro, e gli eventi si stemperano nella routine. Inoltre, quando pensiamo al passato, tendiamo a stimarne la durata dal numero di ricordi che ci sono rimasti impressi, e quelli più vividi sono quelli tra i 15 e i 25 anni. Ci sembra che oggi un anno duri molto di meno. Poi è anche questione di proporzioni. Quando hai 8 anni, un anno ti sembra passare più lentamente perché è un ottavo della tua vita, mentre quando di anni ne hai 50, corrisponde solo a un cinquantesimo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giuliano Aluffi «Chiedete ai neuroni, perché per i meno giovani il tempo va più in fretta», dal venerdì di Repubblica del 15 marzo.